Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Luigi Bisignani, 60 anni milanese, secondo Berlusconi l'uomo più potente d'Italia, giornalista all'Ansa, capo ufficio stampa del ministro Gaetano Stammati, collaboratore di Luca di Montezemolo, Italia 90, infine capo dell'editoria e comunicazione del gruppo Ferruzzi. Nel 98 viene condannato a 2 anni e 6 mesi per violazione della legge sul finanziamento dei partiti. Ha pubblicato recentemente con Paolo Madron per i tipi di chiare lettere l'uomo che sussurra i potenti. Per molti è stato uno degli uomini più importanti da conoscere in Italia. Dottor Bisignani, un uomo che ha fondato il suo potere sul silenzio come lei, perché ha scritto questo libro? Beh, per legittima difesa, certamente. Senta, qualcuno dice invece per vendicarsi perché si è sentito abbandonato. No, assolutamente no, non no. Mi sono mai sentito abbandonato, né dagli amici né dalla mia famiglia. Senta, dottor Bisignani, lei si definisce andreottiano di ferro, cosa vuol dire? Beh, andreottiano di ferro significa essere uno aperto a tutti, con la porta del proprio ufficio aperto sempre per chiunque, essere conciliante e ascoltare tutti. E questo le ha insegnato Andreotti? A essere così? Certo, e anche a non montarmi la testa e rimanere sempre con i piedi per terra, cosa che lui ha sempre fatto. Senta, Andreotti le diceva sempre, lo scrive lei nel libro, la gratitudine è il sentimento della vigilia. È stato vero anche per lei dopo la condanna patteggiata 1 anno e 7 mesi per l'inchiesta sulla P4? Assolutamente sì, però nel mio caso, devo dire la verità, quella è una frase che diceva Andreotti, io non ho avuto voltafaccia particolare. Qualche tradimento doloroso c'è stato? Beh, più che tradimento, più che altro c'è stato un tradimento nei confronti di Andreotti da parte del presidente Geronzi nel suo libro, e questo mi è sembrato giusto ricordare. E nei suoi confronti nessuno? Ma no, clamorosi no, forse. E non clamorosi? Non clamorosi, forse qualche amico, qualche direttore di giornale. Che dica il nome. Che si era, ma i nomi non si dicono, Andreotti non faceva i nomi, non li faccio neanche io. Lei. Senta, la sorpresa più inaspettata in positivo invece? Beh, sai che ce ne sono state tante. Me ne dica una, quella che l'ha sorpreso di più. Quella che mi ha sorpreso di più forse è stato, dunque vediamo un po', di persone, sì, dice lei. Sì, certo, sì. Chi? Anche tanti giornalisti. Ma ne dica uno che l'ha sorpreso, uno che l'ha sorpreso molto. Che mi ha sorpreso può essere stato, sai che non mi viene in mente. Mamma mia, come l'ha sorpreso, accidenti. Senta, a proposito, se lei era innocente, perché ha patteggiato la pena? Beh, per delle ragioni personali e familiari sulle quali non voglio tornare sopra, e avrei patteggiato qualsiasi cosa in quel momento. Senta, dottor Bisignano, su Wikipedia di lei si dice è un faccendiere ritenuto uno degli uomini più potenti d'Italia. Ecco, ma esattamente cosa fa un faccendiere? No, a parte il fatto che io non sono mai stato un faccendiere, perché non mi sono mai occupato di faccende. Beh, su Wikipedia c'è di tutto. Poi quella frase dell'uomo più potente d'Italia era una frase che ha detto il presidente Berlusconi e che è poi un po' nel suo spirito. Forse in quel momento mi voleva una aiutare. Una buttade? Beh, certamente non mai aiutato. Quindi lei non si riconosce in quella definizione? Assolutamente no. E lei come si definirebbe? Beh, c'è un cardinale che aveva detto che era uno stimolatore di intelligenza. Ecco, questa mi piace. Insomma, quella, mica male. Quella mi piace molto. Da faccendiere a stimolatore di intelligenza mi sembra un bel salto. Senta, ma più potente d'Italia senza un ruolo preciso vuol dire che il potere è fatto di intrighi? No, il potere non è assolutamente fatto di intrighi. Il potere è fatto di relazioni, il potere è fatto di occasione. Cioè, che cos'è il potere? Il potere è la capacità di mettere in relazione una persona con l'altra, oppure di immaginare per qualcuno una carriera, un posto, sempre che se lo meriti. Ma sarà anche di fare le cose, il sarà potere. Anche di fare le cose, certo. Senta, nel suo libro, L'uomo che sussurra i potenti, comunque è stato un grande successo. 170.000 copie. Se l'aspettava? Assolutamente. Chiare Lettere ha fatto un affare, il suo editore. Chiare Lettere ha fatto sicuramente un affare. Forse per anche lei, quindi va bene. No, io non tanto, perché è un 11% diviso 2, per cui con Madron ce lo diciamo sempre, ma tale è stata la soddisfazione. Ma se l'aspettava questo successo? No. Loro hanno stampato la prima edizione, erano 35.000 copie e pensavamo di farla fuori fino a dicembre. E come se la spiega questo successo? Ma il successo ve lo spiego secondo me perché è un libro leggibile e godibile, nel senso che non c'è poi tutta quella dietrologia di cui siamo pieni in Italia. Sì. Ed è un libro che fa vedere l'altra faccia del potere, cioè dietro ogni uomo di potere c'è un uomo con i suoi dubbi, le sue preoccupazioni, le sue fragilità. E questo secondo me è piaciuto molto. Senta, e presentandolo in giro per l'Italia, che cosa la colpisce di più? Beh, mi colpisce soprattutto l'Italia. Ecco, un grande rimpianto. Ecco perché? Beh, perché è un'Italia smarrita, è un'Italia incredula, è un'Italia terrorizzata. Io ero romano centrico, milano centrico, e poi vivevo sempre molto. E invece l'Italia non è né Roma né Milano, ma è la provincia. È la provincia. Il sud è addirittura, mi sembra, in uno stato di preagonia. E il nord è, da un lato, terrorizzato per questa mannaia fiscale e così via. E perciò ho visto un'Italia veramente che non preoccupata immaginava. E che può scoppiare da un momento all'altro. E infatti oggi i giovani non trovano lavoro, c'è il rischio di tensioni sociali che sono ingestibili, lo stiamo vedendo in questi giorni. Qualche volta pensa, essendo romano centrico e milano centrico, di aver sussurrato male ai potenti? Lo pensa qualche volta? Beh, certamente sì, chi è senza peccato scagli la prima pietra, io di peccati ce n'ho tantissimi. Senta, ma lei è stato un uomo misterioso e segreto per decine di anni. Poi, dopo la condanna, ha cambiato vita, riflettori, mondanità, più divertente. Ma no, io ero soprattutto un uomo riservato, anche perché poi essere riservati non significa... Purtroppo qui, vede, come dice lei, se sei riservato allora sei segreto. No, io ero semplicemente riservato, che non mi piaceva apparire. Quando vado a cena mi piace stare... Adesso le piace? Ma guardi, le dirò, fino a un certo punto. Cioè io spero perché fino a un certo punto? Perché a me i riflettori poi in realtà non piacciono. Mi piace essere riservato. Insomma, questo periodo però, certo, c'è stato comunque parecchio. È stata una soddisfazione. Senta, l'uomo più potente d'Italia si può dimettere dal suo ruolo? Beh, insomma, certamente non c'è mai entrato in quel ruolo. Quello, le ripeto, è stata una battuta fortunata o sfortunata del presidente Berlusconi. Senta, ma ogni volta che parla pensa che c'è qualcuno che invece pensa che Berlusconi aveva ragione, che ha paura e che trema? No, questo no. Perché? Certamente. Ma perché io non faccio tremare nessuno, non ho questi segreti inconfessabili. Mamma mia, sono stato, mamma mia. Sono stato, com'è buono lei. Ma no, sono stato certamente vicino a persone importanti che probabilmente di segreti ne avevano tanti, ma poi ho scoperto che molti segreti e molti complotti spesso sono solo delle costruzioni che arrivano dopo degli episodi di cronaca assolutamente casuale. Senta, quindi sassolini nelle scarpe da togliersi, se li è già tolti tutti o ne ha ancora qualcuno? No, io credo che si vive bene senza pensare di avere i sassolini nelle scarpe, altrimenti la tua vita diventa uno slalom. Però senta, lei ha fatto un sacco di interviste in questo periodo, questa siamo alla fine del suo giro. Ecco, mi dica una cosa però che non ha mai detto. Beh, una cosa che non ho mai detto è che certamente Papa Wojtyla era rimasto colpito a un certo punto per il mio atteggiamento durante gli anni di Mani Pulite, e mi aveva fatto arrivare un messaggio che mi aveva molto commosso. Che diceva? Che aveva pregato per me. Questa è una cosa che mi riempie di commozione. Senta, il suo nome però è stato trovato negli elenchi della P2, tessera numero 1689. Lei ha sempre negato. Ma chi può aver inventato quel numero e quella tessera? Nessuno. Quella tessera e quel numero, da quel punto di vista, non sono inventati. Tutte le persone che apparivano nell'elenco della P2 erano persone che Gelli conosceva perfettamente. Non erano iscritti. Lui aveva bisogno assoluto di far vedere al Grande Oriente d'Italia che la sua era una loggia regolare, per cui le persone le conosceva tutti. E lui le scriveva di suo? E lui le scriveva. Io poi era noto a tutti che io conoscessi bene il Commendator Gelli, anche perché all'Anza... Vabbè, ha fatto un passo in più, l'ha scritto. In che senso? Gelli ha fatto un passo in più, l'ha scritta e le ha mandato quelli, la tessera. Io la tessera l'ho mai avuto. Tutti quelli che avevano rapporto con lui erano li scriveva, automaticamente. Li scriveva. Tant'è che quando poi scoppiarono il caos delle liste, tra le persone nelle liste non si conoscevano. Ma cos'era la P2 in due parole? La P2 era sicuramente un'invenzione di Gelli, e poi poco alla volta si è trasformato in un centro di potere dove Gelli con alcune persone faceva degli affari, forse proprio all'ombra della P2. Senta, ma lei è massone? Assolutamente no. Ma se fosse lo direbbe? Ma sì, però non si può neanche smentire, perché poi ti dicono che lo devi smentire per forza, perché quello è un giochino impossibile. È impossibile. E credo che la massoneria italiana non sia mai stata una cosa seria. Cioè non è potente la massoneria no, italiana? No, direi di no. Due persone di grandissimo spessore come il presidente Cossiga e il presidente Andreotti non dicevano che era seria. Cossiga diceva che era più che altro importante per i militari. La massoneria all'estero invece credo sia una cosa molto importante. Nel mondo è importante? Assolutamente sì. Dove di più? Beh, negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra. Comanda. C'è una grandissima tradizione. Certo. Comanda. Conviene essere iscritti là? Forse in quei paesi lì, per fare il presidente degli Stati Uniti, forse è convenuto a molti di loro, visto che gran convenuto parte... o indispensabile? Convenuto, credo. Senta, a proposito di mondo, nel suo libro c'è un'informativa proprio dell'ambasciata americana intitolata Nessuna speranza per l'Italia. Ma come l'ha avuta? Ma veramente l'ha avuta Paolo Madrona. Ah, l'abbiamo trovata insieme quell'informativa. Ci è arrivata dagli Stati Uniti, tra l'altro ne avevano già parlato, l'aveva parlato un giornalista della Stampa. La cosa incredibile è che Grillo... Molinari? Sì, sì, l'aveva pubblicata lui, noi l'abbiamo avuto integralmente. E la cosa incredibile... di cosa si parla lì? Beh, si parla di questa serie di incontri che Grillo aveva avuto con gli esponenti americani molto prima delle elezioni e ci ha fatto riflettere. Poi quando ha avuto questo grande successo, i due capigruppo sono andati ripetutamente all'ambasciata americana. Questo ci ha insospettito e ci ha insospettito ancora di più, che però nessuno ha protestato e Grillo non ci ha detto nulla su questa vicenda. Grillo ha smentito o non ha smentito? No. Praticamente non ha smentito. Senta, non se l'è presa con noi. Lei pensa davvero che l'Italia non ha speranza? Beh, certo, l'Italia o si riprende dal punto di vista economico-finanziario, altrimenti così non vedo grandi speranze. Il New York Times ha scritto un articolo pesante, il titolo è L'Italia che spezza il cuore. Beh, vedere tanti giovani in queste presentazioni del libro disperati alla ricerca di una parola o di sapere che cosa devono fare, beh, spezza veramente il cuore. Senta, ma la nostra crisi è funzionale interessi internazionali sull'Italia oppure è tutta nostra? Beh no, è anche funzionale, insomma, l'Italia ormai cioè, è completamente... Cioè l'Italia è in vendita da comprare a poco prezzo, purtroppo conviene. Non è in vendita ma in svendita, è ancora peggio. Poco prezzo. Proprio... E quindi c'è anche una pressione in questa direzione. C'è anche una pressione, ma è anche vero che il sistema industriale mondiale ha paura di investire in Italia proprio perché c'è un'incertezza nel diritto abbastanza forte. Problema di magistratura? Beh, io non di credo... giustizia. Un problema di lentezza della giustizia, ecco, i processi civili che vanno avanti per decenni sono sconvolgenti. Lei è stato molto amico di Berlusconi, lo è sempre? Io ho conosciuto Berlusconi quando ancora non era neppure cavaliere del lavoro. Ma adesso l'ho seguito con simpatia, amico. Non lo vedo da molto tempo, lo seguo certamente con simpatia. Senta, la sua avventura politica è definitivamente tramontata, quella di Berlusconi, dico? Se la sinistra continua ad attaccarlo come ha fatto fino adesso, certamente non è finita. Se con Renzi si riesce a trovare una pace sociale, forse la sua avventura finisce. Ma pensa anche lei, come dice Berlusconi, l'ha detto alla radio francese, che se mai fosse imprigionato ci sarebbe la rivoluzione? Beh, questo è un paese che vive molto di emozioni, per cui certamente quello sarebbe un fatto deflagrante. Ma qual è stato l'errore più grande di Berlusconi, secondo lei? Beh, non aver gestito il potere, non aver fatto del Presidente del Consiglio il lavoro che doveva fare, cioè stare lì a Palazzo Chigi e lavorare per l'Italia dalla mattina alla sera. Ci stava solo Letta. Ci stava Letta, che però, pur essendo un grande sottosegretario della Presidenza, aveva bisogno di un Presidente del Consiglio. Senta, ho letto che secondo lei saranno o Marina o Barbara le redi politiche di Berlusconi. Davvero lo crede? Beh, io ho detto di Marina perché penso che se Berlusconi non potrà presentarsi alle elezioni c'è bisogno sotto il simbolo di Forza Italia il nome di Berlusconi. Marina è quella che mette d'accordo un po' tutti la famiglia e soprattutto oggi è l'unica che mette d'accordo tutti i componenti di Forza Italia che sono rimasti con Berlusconi. Senta, e che oggi sono abbastanza... Abbastanza? Beh, sono abbastanza tesi nei confronti di Berlusconi, Ma non le sembra un'ipotesi da paese delle banane un po'? No, perché c'è stata la famiglia Clinton, la famiglia Gandhi, ci sono stati mille casi di dinastie che vanno avanti nella politica. Marina poi ha dimostrato di essere un grande imprenditore. No, quello certo. Ripeto, poi discorso. È l'unica che verrebbe accettata da Forza Italia adesso. E bisogna vedere gli elettori. Senta, lei e anche Berlusconi che non lo vuole. Ma lei aveva... Ma Marina lo vuole secondo lei? Beh, Marina non so se lo vuole, lei dice di no, perciò devo stare a quello che dice lei, però partecipa a tutte le riunioni, non perde occasione per fare dichiarazioni. Senta, lei aveva previsto il tradimento di Angelino Alfano, pensa davvero che sia un tradimento? Ma non era un tradimento, io questo si è molto speculato su questa cosa. Io dicevo che Alfano era vittima di Berlusconi, quando Berlusconi diceva che non si voleva candidare, Alfano cercava un'altra strada e si era messo con la sirene di Monti, ecco. Poi probabilmente anche adesso non hanno più trovato un'intesa. Ma lei non crede invece che dopo la condanna definitiva Berlusconi ha scelto di giocare su due tavoli, uno all'opposizione e uno al governo? Sì, il rischio è che rimanga senza tavolo. Senta, Cossiga diceva ad atti di guerra si risponde con atti di guerra. Insomma, Berlusconi ha perso la guerra con la giustizia. In Italia la guerra con la giustizia non si perde mai, perché ci sono talmente tanti gradi di giudizio, la possibilità. Vabbè, di... lui è arrivato alla fine dei gradi. Beh, no, adesso lui sta aspettando l'Europa. Insomma, c'è sempre una speranza. Senta, ma è una guerra che ha senso in un paese democratico, quello fra il cittadino e la giustizia? No, secondo me, perché è una guerra molto lunga, la guerra dei 30 anni. Se fosse una guerra breve, con i tempi brevi della giustizia americana e delle giustizie anglosassone, questa guerra non ci sarebbe. Senta, ma oggi chi comanda veramente in Italia? Beh, il problema è che non comanda più nessuno. Nessuno? Beh, direi proprio di no, perché il potere economico si è praticamente così, non si sciolto. Può dire... Nella sede del Sole 24 no, Ore. No, no, si può dire tutto, si anche il potere della Confindustria è molto molto diminuito, quello di Mediobanca, quello delle grandi banche, l'industria, cioè non vedo poteri. Ma è Napolitano? Beh, Napolitano ha molti poteri che la Costituzione non gli dà e che lui si è dovuto prendere, e meno male che e c'è fa Napolitano. E fa una supplenza sostanzialmente. E fa una supplenza e meno male che c'è ancora Napolitano. Senta, il PDL comunque si è sfasciato ed è morto, è nata Forza Italia. Nel PD adesso c'è Renzi, resterà unito il partito secondo lei o no? Beh, Renzi riesce a tenere unito il partito secondo me se va presto alle elezioni, perché il successo poi fa contenti tutti. Se non va alle elezioni, io credo che lì inizieranno delle pulsioni fortissime. Problemi anche lì. Problemi... O elezioni o morte anche lì? Morte no, ma spaccature, voglio dire. Sì, agonie e così via, anche perché bisogna vedere se il governo, come ha detto il presidente Letta, riprende veramente a lavorare sul serio o a vivacchiare. Beh, è la terza ripartenza il governo Letta. E certo, la terza speriamo ripartenza che sia quella buona. Se le piace Renzi? Beh, piace moltissimo a mia figlia, che come vabbè, tutti i ragazzi... Non è poco, allora. Non è poco, anche perché stava convincendo anche mia mamma di 88 anni ad andare a votare per le primarie. Allora, allora. Devo dire che speriamo che non le deluda. Quindi. Devo dire che ha un grande carisma ed è riuscito a bucare lo schermo. Adesso se riesce a rendere concreto le cose che dice, forse siamo di fronte a un Ma il fenomeno. Governo Letta può resistere alla segreteria Renzi, secondo lei? Beh, se cambia marcia sicuramente ma sì. Ma lei ci crede a un patto... vero fra Renzi e Letta? Ma forse tra loro due sì, bisogna vedere che cosa pensa il popolo comunista di essere governato da due ex democristiani. Io ne sarei felice naturalmente. Da buon democristiano. Andreottiano. Senta, Andreottiano, scusi, no, che non era democristiano Andreotti? Andreotti era un'altra cosa. Ma chi era un democristiano? Perché ogni democristiano che si conosce dice che lui non era un democristiano, era lui. No, Pomicino dice io sono un democristiano e lo rivendica Fanfani con orgoglio. Non l'ha mai detto. Fanfani no. Beh, senta, adesso Renzi attacca Saccomanni. Lei un mese fa diceva al posto di Saccomanni andrà Lucrezia Reichlin. Ma chi gliel'ha detto? Beh, sono stato tanti anni al Ministero del Tesoro, lì molti amici ancora ce l'ho. Qualche notizia arriva, l'uomo che sussurra adesso ascolta. Si confidano con lei, non sussurra ma l'ascoltano, forse sussurra anche allora. Senta, ma dal suo libro si capisce che lei ha avuto ottimi rapporti con i papi, l'ha detto, di Giovanni XXIII, Wojtyla, il Vaticano, lo IOR. Ma qual è il papa che l'ha colpito più, Wojtyla? Beh, Papa Wojtyla sicuramente. E perché? Del messaggio che le ha mandato. Anche perché è il papa della nostra generazione, insomma. Certo. Abbiamo vissuto, abbiamo convissuto con lui. Ma quel messaggio era per lei o per Andreotti? Il messaggio del Papa? Non lo so, credo fosse veramente per me quello. Senta, ma pensa che il Vaticano oggi abbia ancora interesse come in passato per la politica italiana? Guardi che questa è un po' una leggenda. Ci sono alcuni cardinali che hanno interesse e scimmiottano molto la politica italiana, ma il Vaticano in quanto tale è fuori dalla politica italiana sin dai tempi di Wojtyla. Diciamo che l'ultimo vero papa democristiano, tra virgolette, certo, logicamente è stato Paolo VI. Certo. Ma Wojtyla non se ne occupava proprio. Ratzinger, per carità, ancora meno. E ecco, questo qua mi sembra talmente lontano, anche perché parla ai fedeli poveri del mondo. Soprattutto dal sud del mondo. Ecco. I partiti oggi si finanziano sempre con le tangenti, come ai tempi della Farenibot, cui lei ha avuto anche una condanna, oppure in un altro modo? No, credo in un altro modo. Lì bisognerebbe veramente rivedere l'idea di un professore illustre, che è il professor Capaldo, che dice che le persone dovrebbero finanziare i partiti e dedurre questo dalla dichiarazione dei redditi. E questo sarebbe il modo, questo secondo sarebbe lei il modo più giusto per... Ecco, però si dovrebbe finanziare così la si dovrebbe finanziare così, permettendo poi alla gente di poterla dedurre dalle tasse. Certo. Questo sarebbe il modo. Cioè, tutto trasparente. Assolutamente. E poi i veri centri di spesa ormai sono le regioni, non sono più i partiti tradizionali. È lì dove credo che ci sia... Da tagliare. Un pochino da tagliare. Lei ha anche casa in Argentina? No, non c'ho più casa in Argentina. Ce l'aveva? Ho vissuto lì tanti anni, tanti da piccolino. Anni, ecco. Ci va ancora o non ci va più? No, ci vado ogni tanto in vacanza. Ah. Ma ha conosciuto Papa Francesco in Argentina? No, il cardinale di allora? Il cardinale Bergoglio, ne sentivo parlare, ma l'ho visto quando veniva alla chiesa argentina, dove c'è un altare per mio padre. Mm. Ed era così un personaggio straordinario. Ma l'ha conosciuto? Ha avuto un rapporto? No, no, non ho avuto un rapporto, l'ho visto lì in chiesa quando veniva alla chiesa argentina. Ma lei pensa che lui renderà irreversibile definitivamente l'opera di trasformazione del Vaticano, anche del Vaticano? Beh, l'ho scritto iniziato da Benedetto. Nel libro con Paolo Madron l'ho scritto un mese dopo la sua elezione, che lui sarebbe stato uno tsunami e che avrebbe riformato lo IOR, tutte cose che stanno succedendo. Ne ero certo. Perché ne era certo? Beh, perché la sua missione proprio verso i poveri, il suo modo di vivere era proprio quello di un uomo che guardava ai poveri del mondo. E quindi perciò ero banca. Sicuro che sarebbe stato coerente con questo e avrebbe fatto dello IOR la banca veramente delle missioni, e ci riuscirà sicuramente. E quindi il presidente Gotti tedeschi ha fatto del bene o del male allo IOR? Il presidente Gotti tedeschi è una brava persona che io ho conosciuto, era totalmente inadeguato per fare il presidente dello IOR. Se ne sono e quindi come sarà riformato secondo lei lo IOR? Beh, secondo me non ci saranno più conti di privati, ci saranno solo conti di organismi religiosi per il bene della Chiesa in giro per il mondo. Senta, ma secondo lei l'uomo che sussurra ai potenti, di quale sussurro si pente? Di quale sussurro si pente? Beh, tantissimi sussurri. Me ne dica uno di cui si pente, perché lei è andreottiano vero, eh? E beh, soprattutto non dice quello, la parola. Soprattutto quello di non essere stato ascoltato alcune volte. Ma me ne dica una in cui ha avuto l'idea giusta e non l'hanno ascoltato. Beh, per esempio, per la vicenda della RAI, pensavo che Mauro Masi, che è un mio amico ed è un manager molto capace, non sarebbe stato un bravo direttore generale RAI. Poi è stato anche un bravo direttore generale RAI, ma forse era meglio che rimaneva a fare il segretario generale della Presidenza del Consiglio. E quale sussurro invece avrebbe voluto dare che non ha dato? Beh, al presidente Berlusconi di gestire molto più il potere, mentre invece lui ci scherzava un pochino sopra. Senta, dottor Bisignani, adesso dopo tanto silenzio e tanto rumore, che cosa farà da grande? Beh, per adesso sto scrivendo un libro che uscirà a maggio. Un altro libro? Un altro libro, un romanzo, una spy story. Ah. E poi faccio una società di consulenza. Una spy story su cosa? Il plot qual è? In due parole. Il plot è, diciamo, il conflitto di interessi tra editoria e finanza. Ah. Grazie. Auguri. 800 24 0024 il nostro numero verde, l'SMS 349 238 6666. Dopo la pubblicità ci ritroviamo qui. Mix 24. Ah, music. Good night, my music, by and by. Eccomi. Ciao, ci spieghi la tua canzone del lunedì? È un capolavoro della musica italiana che riesce a parlare al mondo, a farlo cantare, a farlo danzare, ovviamente Paolo Conte, by Music. Fantastico. Senti, Mario, sì. Che titolo faresti l'intervista di Bisignani? Il giallista. Perché abbiamo guadagnato un giallista. Perso un sussurratore, però abbiamo trovato un giallista e farà bene, vedrai, perché sa scrivere, è bravo. Bene, beh, 170.000 copie. E tu, Pietrangelo? Io farei Non ce n'è per nessuno, nemmeno per i potenti, perché mi ha colpito il fatto che non esiste più il potere in Italia. Questo è il suo racconto. Il non risultato c'è più nessuno, finale. Sì, siamo senza re e senza regno. Accidenti. Beh, purtroppo. 800 24 0024 349 238 6666 Mario, le bolle. Allora, grandi argomenti legati alla politica, non si direbbe, però ascoltate qua. È spento. No. Allora, la sigla è quella di Drive-In, gli anni fulgenti che erano quelli degli anni Ottanta. Perché? Perché il dibattito politico, ahimè, è scivolato anche sui paninari. E insomma, Renzi ha detto che non gli erano simpatici, gli anni Ottanta sono un sacco di cose nell'immaginario collettivo, è uno dei temi dell'assemblea del PD che si è tenuta a Milano. Sì. Vedremo se porta qualcosa, non lo so, io sono un po' scettico. Io sono ottimista paninari. Invece. No, no, io sono ottimista sui paninari. No, io sono ottimista sull'assemblea del PD. No, vediamo, dobbiamo avere un po' di speranza, perché dopo quello che ci ha detto Pietrangelo, che è colpito da questa assenza di potere, senza regno, senza regno, ma senza... con che cosa? Salamini, allora per questo salamino che deve essere, lo vorrei fare piccante, più che altro un'anduia proprio piena di peperoncino. Fate conto che io non sia qui presente in studio, ma vi sto telefonando, ma vi sto chiamando purtroppo per non sei. Coinvolgervi in un fatto che tanto mi ha turbato e tanto mi fa arrabbiare. Allora vi comunico che da oggi io porto nel mio zaino un tricolore italiano e quando vedo una bandiera europea la strappo e ci metto il tricolore. L'idea che un ragazzo, Simone Di Stefano, sia stato sbattuto in galera e che oggi sia processato per direttissima per avere sostituito la bandiera europea con il tricolore la dice lunga sulle intenzioni di criminalizzare da parte di un meccanismo che diventa sempre di più regime. Quindi io se ne abbiamo appena detto che non comanda nessuno. Non comanda nessuno, ma comanda un sistema in automatico che non fa altro che criminalizzare chi magari fa un'azione simbolica. Io voglio difendere il simbolo e gli voglio dedicare queste note. È nella... Fai sentire le note. E pensi al sogno che avevi un tempo. Ma chi so questi? Disperato amore, Z0 Alfa. Z0 Alfa. Alla faccia del regime, le note fase... disperato amore. È in fase radicale, si avvicina a Natale. È meraviglioso. Poi se butta fuoco, si avvicina a Natale e diventa nazionalista. Vota Santa Claus. Non si capisce. Vabbè, andiamo avanti con le bolle, va che andiamo in Cina, mi pare, no? Sì. Allora. Allora la Cina è da tenere d'occhio, perché ahimè la crescita è da tenere d'occhio. Per fortuna la crescita mondiale dipende molto da che cosa fa la Cina. Sì. C'è l'indice manifatturiero degli acquisti compilato dalla Hong Kong Shanghai Bank da tenere d'occhio. Le prime stime indicano un rallentamento e il Partito Comunista, ma questa cosa fa sempre impressione, avverte ci sono pressioni negative sulla crescita. Poi il tasso di disoccupazione sarà basso, 140.000 al massimo. Non me ne frega un cazzo di quello che pensi tu, stai diventando un kamikaze. Vieni qui senza neanche farti la barba. Smetti di giocare con questa cazzo di pallina e sta attento a quello che ti dico. Bevi spremute di palle di toro, però puzzi di alcol, vai in giro tutta la notte a divertirti e questo allora, va bene. Questo è un meraviglioso dialogo di un grande film che è La 25esima ora. Parlava Frank con un collega della sala trading e insomma noi ci occupiamo di che cosa? Di banchieri, perché secondo un sondaggio molto autorevole, ovviamente appena pubblicato anche da Bloomberg, in media i bonus dei banchieri londinesi cresceranno del 44%. 44% di bonus in più nel 2020. Yes sir. Loro comandano Pietrangelo. Lì c'è il regno. Se ci riescono a far dare il 44% di bonus. Comandano tanto è vero che dell'Italia ne hanno fatto una loro porcheria. Certo. Landa desolata. Il problema è che non comandano gli italiani. Sì, abbiamo gli italiani in casa loro non riescono a comandare. Abbiamo contribuito anche noi a fare tutto questo bel quadretto, diciamo, che ne è venuto fuori dall'intervista a Bisignani. Diciamoci la verità. Noi il potere è noi italiani. Insomma, non è che non abbiamo ci abbiamo messo del nostro, dai, su, non è che siamo solo governati, siamo anche cittadini. Bravo, e quindi Giovanni, insomma, non bravo, è che cittadini la responsabilità della sempre Repubblica Italiana. No, cittadini, partecipi e responsabili. Bravo. Anche noi. Sì, è così. Dei grandi anelli. Tre furono dati agli elfi, gli esseri immortali più saggi e leali di tutti. Sette ai re dei nani. Ma chi sta con gli elfi e con i nani? Chi? Perché qua bisogna decidere. Buttafuoco, stai con gli elfi o con i nani? Io sto coi campi hobbit. Allora, perché è appena debuttato il sequel della Sala, sì, buonanotte, della saga Tardelli, no? Cioè, ormai ce l'hai sempre in testa. Della saga di Tolkien, ha incassato, mi pare giusto, 73 milioni sono di dollari. Sono tutti d'accordo sulla Tardelli. D'accordo sulla Tardelli, vabbè, gol. Però quella è in virtù di monarchia, sia chiaro, sì, perché è certo, carismatico, perché la bellezza apre tutto. Sono diventato tutto rosso. Comunque, Hobbit ha incassato 73 milioni di dollari nel primo giorno di uscita nei cinema americani. Ancora cinema. Sigla di Avatar, è un trittico cinematografico quello che stiamo facendo adesso. In Nuova Zelanda il primo ministro ha appena firmato un accordo con la casa produttrice dei film di James Cameron. Voi direte perché? Perché sono intelligenti, caro Minoli. Partecipano alle spese del film, si girerà ovviamente in Nuova Zelanda e in gioco c'è mezzo miliardo di dollari di investimenti. Non è l'unico paese che mette location, no, servizi bravi, a disposizione di chi gira. E in Italia? In Italia anche si fa. Si fa? Sì, sì. Per esempio in Sicilia ci avevamo provato. In Sicilia ci avevamo provato. Un po' siamo riusciti, anche in Trentino. Faremo Bollywood in Sicilia. Bollywood in Sicilia. Appena si leva Crocetta. Faremo Bollywood. Se non si leva Crocetta non si può fare. Ancora cinema. È il nostro omaggio a chi? A Peter O'Toole, povero. Grandissimo. Grandissimo. No? Il nostro indimenticabile Lawrence d'Arabia, che ci ha tenuto compagnia molti giorni dei nostri anni. Posso dire? Sì. Fu nel suo volto il momento più bello dell'incontro tra l'Occidente e l'Islam. Sì. Fece seguito all'altro momento cinematografico importante e potente, Il vecchio leone, quando lo sceicco venne interpretato da Sean Connery. Il cinema riesce a fare delle operazioni che la bestialità dell'ignoranza di solito tramuta soltanto in violenza e in cecità. Viva l'arte! Viva l'arte! Viva l'arte! Viva il cinema! Marco Fortis, professore di economia all'Università Cattolica, stretto collaboratore di Raul Gardini, relatore al convegno Ravenna domenica sull'imprenditore, appunto ravennate. Professore, Gardini era solo un visionario? Direi che Gardini seppe dimostrare, soprattutto nei suoi anni migliori, quando era la guida dell'agroindustria del gruppo Ferruzzi, grandi doti di imprenditore e un'altrettanto lucida visione strategica. Proseguì la diversificazione del gruppo dal trading all'agroindustria, già iniziata dal suocero Serafino Ferruzzi. È quindi un uomo concreto? Un uomo concreto, sicuramente, ecco. Tant'è vero che il gruppo Ferruzzi divenne il più importante gruppo agroindustriale d'Europa. Ecco, che cosa resta delle intuizioni di Gardini? Ma delle intuizioni di Gardini resta soprattutto il grande respiro internazionale che gli aveva, la proiezione all'estero del gruppo, la capacità di vedere il mondo nella sua globalità e una grande fiducia nell'Europa come continente pronto a combattere le sfide della globalizzazione. Ecco, l'economia verde, che era il suo sogno, oggi è anche il nostro futuro o no? Ma certamente lo è in parte, e come dimostrano i successi imprenditoriali delle aziende che hanno proseguito poi nell'utilizzo delle materie prime agricole in campo industriale, molte di queste aziende oggi sono italiane. Ciò dimostra che le intuizioni erano buone e probabilmente una politica industriale più compatta dell'Italia in questo campo potrebbe farci cogliere molte opportunità. Grazie professor Fortis, buon lavoro. Grazie mille. 800 24 00 24, il numero verde, SMS 349 238 6666. Dopo la viabilità racconteremo la storia, appunto, di Raul Gardini, storia curata come sempre da Marina Milone. Viabilità.